72esima puntata di Coccoli al Silicio. Dio, come sono sparato, ecco, così va meglio. E questa 72esima puntata ha addirittura un ospite, essenzialmente perché non avevo argomenti e allora ho raccattato una passante qua fuori e ho detto: vieni a raccontare delle cose. Per fortuna ci aveva delle cose da raccontare, se no sarebbe stato una trasmissione veramente tirata via, molto più di quello che invece apparirà grazie alla ospite. E di quello che narreremo in realtà è una cosa di cui abbiamo già parlato tante volte, ma che ora ha avuto degli sviluppi. C'è stata una intensa session di radio amatori autogestiti, che si è svolta nello scorso weekend, e ora ci faremo raccontare le finalità e che cosa è uscito da questa roba. Quindi, insomma, torniamo a parlare di radiofrequenze e in particolare di onde medie. Sì, ciao a tutti e tutte. Non so assolutamente se mi si sente, io in cuffia non sento assolutamente niente, ma vabbè, non importa. E sì, allora, cioè, come me l'hai messa, proprio sembra, cioè, svilisci veramente la mia presenza, cioè, boh, tu il racconto. È la mia specialità. Infatti, vabbè, ma a me non interessa. Ecco, quello che c'è stato questo fine settimana è stato un 3 giorni, 4 giorni, da circa giovedì fino a domenica, di, diciamo, un weekend allargato, ecco, di lavori e pratici, di coordinamento, pratica e teorico anche, via, di alcune radio, tra cui la vostra radio preferita, Radio Wombat, ovviamente, e altre radio del progetto che si diciamo, coordinano già da qualche, ormai anno, direi, in questo progetto che si chiama Ciurma Pirata. Ciurma Pirata, forse l'avrete sentito dire come nome, anche se l'abbiamo usato poco, devo dire, però ci sono le magliette, però ci sono le magliette, ma da quest'estate, ma insomma, diciamo che ha fatto la sua prima comparsa come nome collettivo e come logo, anche un bellissimo logo, quando abbiamo fatto una serata, lo dico perché ce l'ho davanti il poster, ecco, una serata a Next Emerson a Firenze che si intitolava We Want the Airways Back, che erano 2 giorni per rivendicare l'uso e la frequentazione delle onde medie, della radio, in particolare delle onde medie. Cos'è, al 3-4 marzo del 1900, non l'ho detto, perché questo 3-4 marzo eravamo chiusi in casa. 1977. No, era di 2 anni fa. Ah, ok. Chi mette di più? No, dai, non era quest'anno, perché quest'anno sappiamo tutti dove eravamo, il 3-4 marzo. L'anno scorso, 2 anni fa. Boh, madonna, come non mi ricordo niente. Vabbè, però sappiamo che era il 3-4 marzo. Sì. Sì, allora, una 2 giorni era quella dove abbiamo iniziato a parlare delle onde medie. C'è stato un confabulare, diciamo, pubblico sulla questione delle onde medie, della riappropriazione delle onde medie, e eravamo alcune radio, al tempo c'era, ricordo, Radio Wombat, Radiogramma di Genova. Era 2 anni fa, dai, me lo sono ricordato. E poi c'era Radio Spore di Bologna che iniziava i suoi primi passi, diciamo, E poi c'era, beh, fondamentalmente c'è stata la visita, poi ci sono venuti a, però diciamo che è stata una 2 giorni dedicata alla radio. In quella occasione è nato questo logo e questo è nato, insomma, è stato reso pubblico questo no, logo e questo nome, Ciurma Pirata. Ciurma Pirata si è riunita in realtà negli ultimi 2 anni, ha continuato a fare cose. È continuato soprattutto una sperimentazione di trasmissioni in onde medie e l'ha fatto in maniera completamente autocostruita, autogestita, quindi imparando insieme, perché nessuno era ed è esperto particolarmente col bollino sulla questione, e abbiamo imparato insieme un po' come si fa nei giri dell'hacking e nei giri dell'autogestione, insomma, con questo spirito condividere ognuno quel che sa e imparare insieme. Quindi in questi 2 anni ha continuato un po' a fare questo, è continuata come dire, ampliato sia il raggio di chi l'ascoltava e sia il raggio di chi la faceva anche, e ha potuto sperimentare molto di più rispetto a prima, ha trasmesso molto di più, anche se, ahimè, non sta andando in onde medie, però lo fa in streaming. Invece Radiogramma sta continuando, insomma, ha continuato imperterrita ormai da diversi anni a trasmettere, e loro a Genova, radio legata al Buridda di Genova. Anche questa radio ha avuto un'attività abbastanza fervente durante la pandemia, insomma, durante il lockdown di questa primavera. Ma queste sono le radio che più o meno, insomma, c'erano anche prima. Delle sperimentazioni ci sono anche a Napoli, Radio Neanderthal, che ha mosso i primi passi con Ciurma Pirata, insieme alle altre radio. E poi però si sono aggiunte nel frattempo anche altre radio. C'è stata, proprio durante il lockdown, è nata Radio Forte a Roma, radio che ha insomma, base a Forte Prenestino. E poi si è comparsa durante questi 3 giorni anche Radio Eustachio di Verona, che in realtà non è comparsa ora, esiste da un bel po', forse più di alcune radio di forma pirata, loro esistono forse da molto prima, e però è entrata, diciamo, è comparsa anche in questo coordinamento di forma pirata. Forma pirata si è ritrovata appunto questo fine settimana per sia provare a insomma, aggiornarsi un pochino sullo stato delle singole radio e provare a dare un po' più vita a questo coordinamento, in modo che non lasciare nessuna radio da sola, ma iniziare un po' a lavorare davvero in maniera sinergica. E poi ha fatto, poi questo poi era il cuore di questi 4 giorni, giocato, cioè abbiamo tutti giocato per 4 giorni ininterrottamente, montando una serie di componenti per trasmettere in onde medie. Quindi questo abbiamo fatto e delle insegne anche bellissime, le insegne on air bellissime che sono state regalate a ciascuna regia delle singole radio, e di questo siamo felicissimi. È stata un'occasione molto, molto bella, ma sto parlando un po' a ruota, quindi dimmi te cosa, visto che tu non c'eri. Parliamo dell'insegna, che mi sembra la cosa più pregnante. Quando la potremo montare? Vero? Quella ti è piaciuta tra tutti. Non l'hai neanche vista. L'insegna, perché dovete capire che, cioè, per una radio autogestita, non commerciale, comunque, cioè, questo senso di inferiorità che sentiamo verso le grandi radio commerciali si materializza tutto nella scritta on air che lampeggia quando qualcuno trasmette. Cioè, questo è evidente, penso, no? Ma è Certo. anche l'unica cosa interessante della radio, cioè se no Certo. uno perché farebbe radio? Solo per avere la scritta on air quando trasmette. Anche perché, tra l'altro, chi non fa radio è molto invidioso, cioè guarda fuori dalla regia, vede la scritta che lampeggia on air e dice: Madonna, che fighi questi che fanno radio, è una roba troppo bella che vorrei fare anch'io. Cioè, quindi il nostro è anche un bieco trucco per attirare gente a fare radio, questo, con i luccichini, con i LED e i luccichini. LED e luccichini funzionano. Insegna in Natale. In Natale sono solo LED e luccichini. Di brutto. Se funziona, da quanto funziona Natale? Da 2000 anni. Ma più di 2020. Più di 2000. Una festa pagana che risale ben prima. E funziona bestia. Funziona bestia. Ma infatti i glitter poi non hanno mai deluso nessuno. E neanche i LED, ci mancherebbe. Quindi io direi che insomma, la scritta è molto importante. Quindi capisco questo tuo interesse. Non so quando verrà montata, è una scritta in legno, perché dovete sapere che, ora non ve l'ho detto, così, anche se non me lo chiedi io mi allargo e le dico le cose, però questa 4 giorni che era a Genova, forse non l'ho neanche detto dov'era, l'ho detto? Non l'abbiamo detto. Ma sì, ma infatti, ma chi se ne frega? E tanto ormai è andata, cioè che ti frega di sapere dove? Infatti, comunque era a Genova, alla Buridda. Aburida ha un Fab Lab meraviglioso, che è un laboratorio, diciamo un hack lab con delle stellette. Cioè tante stellette. Degli asterischi, perché è un hack lab che però ha a disposizione di tutti e tutte, non solo chi è stato tutti all'hack lab, ma anche da chi insomma ne ha bisogno e ne vuole provare, a disposizione un sacco di macchinari. Loro c'hanno di tutto, c'hanno il tornio e la fresa e c'hanno la taglierina laser. Cioè questi, capito? 20 macchine stampanti 3D, 45 trapani a colonna. Cioè l'opulenza del lobbista proprio. Sì, ma poi l'opulenza del fai da te. Sì, ma poi guarda, la cosa veramente scandalosa era il fatto che era tutto ordinato, tutti i cassetti, 25 milioni di cassettiere, tutte belline, con tutte le scritte, qui ci sono i martelli, qui ci sono le pinze, capito? E te aprivi il cassetto... Sono ore e ore di lavoro, di lavoro umano. Di catalogazione. Cioè, di catalogazione, lavoro umano, solo a mettere in ordine. Certo. Cioè, vuol dire, sono persone che provano la propria soddisfazione nel mettere in ordine. Come è giusto che sia. No, poi la cosa bella è che te aprivi il cassetto dei martelli e dentro c'erano i martelli, capito? Cioè, non come succede negli altri hack club dove ti apri... Uno trova le patatine dentro al cassetto dei martelli. Sì, non so se siete mai entrati dentro un hack club, ma generalmente così succede. Cioè, il cassetto è le viti e dentro c'è, le patatine tendenzialmente, probabilmente. E quindi no, lì era molto bello, ne siamo venuti via con un'ammirazione... sconfinata. D'altronde siamo stati ospiti di questo spazio bellissimo durante l'hack meeting che si è svolto proprio in quei luoghi 3 anni fa, ecco, ok. E niente, quindi è stato molto molto molto bello. Oltre a questo sono stati costruiti dei trasmettitori, sono stati costruiti dei filtri, cioè insomma abbiamo dato corpo a tutto il nostro desiderio di sperimentare, ecco. E la cosa bella è che c'erano persone con un po' tutti gli skill, diciamo, cioè dalle persone che non avevano mai preso in mano un saldatore, non avevano la più pallida idea di cos'era una resistenza, alle persone che invece avevano un po' più cognizione di causa, decisamente più cognizione di causa. Ed è stato veramente, se posso dirlo, emozionante riuscire a in batteria, perché poi siamo stati super produttivi, a portare a casa tutti questi giocattoli e farlo tutti insieme, senza che ci fosse oltretutto un capo che ti spiegava ok, adesso si fa così, così, così, ma era un po' un chi ha capito un passaggio lo spiega a quello dopo, quindi chi impara a fare un trasformatore con il rame poi... passa l'accollo. Passa l'accollo o lo fa insieme agli altri, perché comunque ve ne vanno fatti tanti, allora per forza di cose ti spiego come funziona, impari e si fa, quindi anche con il rischio di sbagliare, di dover ricontrollare le cose 20 volte, perché poi magari chiaramente chi ne sa di meno magari fa un sacco di errori, ma chi se ne frega, è anche bello proprio per questo. Il controllo qualità che sbaglia a sua volta e viene ricontrollato dal secondo controllo qualità, cioè tutte cose di questo tipo. però è stato molto molto bello e devo dire le cose che ne sono venute fuori sono state proprio belle belle, anche perché davvero al Fab Lab lì al Buridda c'è dei macchinari incredibili, c'è una falegnameria, c'è tutta una serie di cose che veramente lo rende un po' il paese dei balocchi. Ma quindi ci saranno altri appuntamenti a primavera a questo punto ormai, perché... No, allora non ci giusto, saranno... Giusto, no, non ci saranno altri appuntamenti, basta. Cioè no, era cioè, one shot. Beh sì, non, anche perché ultimamente insomma fare piani sul... No, non ha senso, niente piani sul futuro. Purtroppo è tutto un po' così, è un po' tutto... Si vive alla giornata. Sì, siamo gente un po' così. Però una delle altre cose che è nata durante questa 4 giorni e che avrà delle ripercussioni sui palinsesti di tutte queste radio che vi ho nominato, almeno in parte di esse, è anche la nascita di questo radiogiornale di Ciurma Pirata, un radiogiornale che in realtà è un po' che vi promettiamo. Nei mesi scorsi avete sentito degli anticipi, diciamo, perché nei mesi scorsi, durante il lockdown in particolare, Radio Spore di Bologna si era preso l'onere di fare una volta a settimana il... No, scusate... Era quasi tutti i giorni. Tutti sì. I giorni, dal lunedì al venerdì, all'ora di pranzo, all'una, c'era il radiogiornale di Radio Spore, bellissimo, tra l'altro anche con la parte del meteo e grandi amenità. E giustamente hanno deciso e hanno chiesto di condividere questo accollo e è stato raccolto dall'intera... o perlomeno quasi intera Ciurma Pirata, quindi comunque a brevissimo vi posso dire che nella fascia oraria che va dall'una alle due di quasi tutti i giorni riusciremo a coprire dal lunedì al giovedì, rimarrà scoperto il venerdì almeno per adesso, ci sarà il radiogiornale di Radio... Ciurma Pirata, che sarà ogni volta di una radio diversa, quindi un buon motivo per ascoltarci in diretta. Beh sì, anche perché come sapete insomma le notizie poi se le ascolti il giorno dopo non sono più le stesse. Fragranti, per quanto loro veramente era una cosa furba, perché è un meteo assolutamente perfetto, il meteo del giorno prima è non sbaglia mai, non... è stupendo. Però capisci che se il meteo del giorno prima diventa il meteo di ieri l'altro, ecco, già ha un po' perso il suo fascino. In effetti è vero, è vero. Non si può andare troppo indietro. No. Quindi la diretta la regressione deve fermarsi. Sì, quindi la diretta è importante. Su Radio Giornale sì, quindi provate a sintonizzarvi sulle nostre frequenze oppure sul nostro streaming e forse prima o poi... ascolterete il radiogiornale. Sì, ma ci sono delle date di partenza di questa cosa o è una roba tipo uno deve scontire da domani in avanti sempre? No, lo annunceremo sul sito. Lo annunceremo sul Penso sito, va bene. Penso che succederà la settimana prossima, mi sento okay. Di poter dire che succederà la settimana prossima, se non proprio tutti i giorni, almeno... Quindi per ora sentitevi libere e libere anche di saltare qualche pranzo. Sì, ma non esageriamo. Cioè, però, esatto, comunque mettetevi già nell'ottica di... Sì. E sì, poi vabbè, tutto ciò andrà avanti, insomma, spero che sia stata, ma sono molto convinta che in realtà sia stato, non è stato il primo passo, è stato uno dei passi successivi, ce ne sono stati altri in questi anni per conoscerci e mettere su un coordinamento, spero che questo insomma sia penso che sia stato una bella svolta, ecco, un passone che ci voleva. E l'altra cosa che non ho detto, che però forse era un po' importante dire, è che oltre a tutto questo condividiamo, queste varie radio condividono la frequenza, la 1359 AM, quindi se a Firenze accendete la radiolina con le vostre AM, quindi sulle onde mediocri, e potete trovare, se siete fortunati e fortunate, potete trovare Radio Wombat, ma se vi portate quella radiolina a Genova e l'accendete a Genova, magia, a Genova potete sentire sulla stessa frequenza senza dover, capito, la fatica di girare la manopolina, sempre rimanendo così, senza trucco e senza inganno, sentire radiogramma, capito? E poi, non adesso, ma a breve speriamo, andate a Bologna con la stessa radiolina e sentite Radio Spore, o andate a Napoli e sentite Radio Neanderthal. Cioè, questa è una è fantastico. È come trasformare i limiti come si dice, in future, sì, opportunità, dicono i manager. Sì, sì. Opportunità mi piace di più, perché quell'altra parola non mi riesce di dirla. No, è più bella. Non riesco mai a prenderla. Sì, è più italiana. Sì, e quindi niente, è ottimo questa cosa di trasformare i nostri evidenti limiti in grossissime opportunità, perché fa capire che c'è anche una strategia di marketing ben studiata dietro a questo progetto. Va. Un business plan di quelli da far accapponare la pelle. Ci mancherebbe. Sì. Che è ottimo, perché tendenzialmente noi lavoriamo molto sul non abbiamo soldi oggi, non ce li abbiamo domani, non ce li abbiamo neanche tra un anno, neanche tra due, che è un business plan che funziona sempre. Sì, questo è il bel. Cioè, non abbiamo bisogno di riadattarlo, è una bomba questa cosa. Sì, tra l'altro, insomma, proprio per questo, per lavorare a questo business plan, comunque abbiamo fatto delle magliette indebitandoci. Di cui non vogliamo rientrare, perché tanto che cazzo ce ne frega. Infatti, tanto non ce li abbiamo i soldi. Infatti. Cioè, allora, secondo me il business plan prevede che non andiamo troppo sotto, che quindi non abbiamo soldi, ma dobbiamo vendere quel quantitativo tale di magliette in modo da poterne fare altre. E indebitarsi ulteriormente, sì. Ottimo. Esatto. Vabbè, più o meno quindi, è la strategia vedete della maggior parte degli stati-nazione di questo mondo, non è che cioè, siamo perfettamente in linea. Ne abbiamo copiato dai migliori. Noi non si inventa niente. Quindi niente, se trovate in giro le magliette, sapete che insomma le potete prendere, ma con moderazione, perché sennò poi magari andiamo troppo sopra nel bilancio. Ecco. Sì, sì. Cioè qualcuna rubatela anche. Sì. Non è che è tutto no, da pagare. Poi abbiamo anche gli adesivi, insomma. E chiudiamo, direi, mettiamo della simpatica musichina e poi io vi annoierò con altre due notizie, questa volta strettamente informatiche. Penso non sarà più frizzante come ora che si parlava di cose vere, ora ritorniamo a parlare dei soliti computer che palle, però no, in realtà per avere studiato poco, in realtà ho trovato delle notizie lì che non sono niente male, e poi si ricollegano molto a alcune cose che ho detto la scorsa settimana, perché non so, la realtà mi aiuta. Cioè io vado completamente a caso, ma in automatico tutti i pezzi del puzzle tornano al loro posto, come in una sorta di puzzle olistico. Cioè quindi stai dicendo che vivi in una specie di mondo che ti viene incontro, cioè una specie di Matrix fatto per te? Che è olismo, le cose sono collegate, le coincidenze non esistono. Bene. Io tendenzialmente sto nel flow. Bene. Bene. Ora metto la musica, basta. Come back to me. You've been gone too long. Stoppiamo questa canzone veramente noiosissima. No, non è vero, era molto molto molto sentimentale. Ho messo tutti i pezzi doo-wop questa sera perché così mi girava quest'oggi. E però chiaramente pesco a caso, non so mai che cosa viene fuori. E appunto perché conto sul fatto che questa aureolistica metta a posto le cose per me. E così io continuo a improvvisare e fine. E vi dicevo delle notiziole che ho trovato. Una è particolarmente succosa in realtà. È successo un paio di giorni, perché? Anzitutto, che cos'è Finn Fisher? Finn Fisher è una roba di cui forse abbiamo già anche parlato, perché sono è una compagnia simile a Hacking Team, che produceva un software simile ad Hacking Team, ma era un concorrente di Hacking Team, prima che Hacking Team completasse la sua corsa in questa vita e morisse sostanzialmente. Però invece no, Finn Fisher è andata avanti, vende sostanzialmente gli stessi prodotti, però come per Hacking Team, cioè c'è proprio delle grosse affinità un sacco, erano stati sospettati, ora più palesemente indagati e perquisiti, perché si vociferava che vendessero i loro software anche a governi non esattamente troppo amici. In particolare nel 2015 in Germania, ma penso... Infatti, è una roba della comunità europea, hanno introdotto una specie di licenza per la vendita di questi software che di fatto vengono usati per la sorveglianza delle persone e per fare in modo che tu possa vendere questi software, ma non a tutti i governi. Tu devi avere per ogni governo con cui vuoi vendere una particolare licenza. Questo perché? Perché se tu sei un governo sotto embargo, così come non ti vengono vendute armi, così come non ti vengono vendute altre cose, non ti dovrebbe essere venduto neanche questo software. Ebbene, da una ricerca del 2015 fatta da Citizen Lab, che è un'associazione di cui abbiamo già parlato altre volte, che si occupa un po' di monitorare questi software e in particolare di monitorarne le violazioni dei diritti umani, era emerso che Finn Fisher già nel 2015 stava in parecchi stati, di cui alcuni tipo c'erano quelli a regime democratico, che come tipo casa nostra, cioè ci stava anche in Italia, Finn Fisher, in Spagna, e in Belgio e in sacco di altri posticini, quindi vuol dire che le nostre polizie in qualche modo lo utilizzavano. Ma stava anche, ad esempio, in Egitto, oppure in Nigeria, oppure in Venezuela, in Paraguay, in Messico, in Kazakistan, in Mongolia, in Malaysia, in Indonesia, nell'Arabia Saudita, nell'Oman, in Giordania, in Turchia, come dimenticare della Turchia, stava anche in Romania, infatti sono diventati partner. Ebbene, si pensa comunque che in tutti questi luoghi in cui stava ci fossero appunto anche dei governi che non dovevano avere questo software. Ora, posto che la mia opinione è che nessun governo dovrebbe avere questo software, però è interessante che questa compagnia sia finita sotto indagine per questo tipo di attività, e in particolare appunto tutti i almeno una quindicina, penso, dei loro uffici, almeno così mi sembra di aver letto nell'articolo, sono stati perquisiti alla ricerca appunto prove che in qualche modo confermino la vendita di questi software a questi governi. Diciamo che il fatto che tu trovi delle installazioni non è che poi uno deve cercare, cioè non è che lo trovi nei siti di cracking dove scarichi la copia craccata di Windows, questo, no? Cioè, nel senso che se ce l'hai è perché te l'hanno venduto, non è che l'hai scaricato da internet pirata con la cura, il loader e il key generator, cioè non è così. E quindi tendenzialmente è un'indagine che se è partita è perché in qualche modo sa già dove vuole andare a parare. Però ecco, è interessante che queste cose, cioè la prima volta che ho sentito parlare di Finn Fisher era appunto il 2015, ora siamo nel 2020, sono passati 5 anni e ancora si parla di loro. È forte, cioè vuol dire che comunque il mondo è noioso, si parla sempre delle stesse cose. No, pure vuol dire che questa roba che hanno lanciato, segnalato nel 2015, questi di Citizen Fish, effettivamente ha avuto un suo corso lunghissimo, però alla fine a qualcosa è approdato, cioè così. Poi può essere poco interessante, però comunque è un bastone tra le ruote di una compagnia che a me mi sta antipatica e tendenzialmente se dovessi scegliere qualcuno che chiude, non farei chiudere il panettiere all'angolo, ma questi qua probabilmente sì. E ora vi lascio un altro po' di musica, poi vi racconto ancora due cosette, poi diciamo andiamo a chiudere la puntata, iniziata in ritardo ma finisce in orario. Perché sono così, cioè tu dici iniziato in ritardo, finisce anche dopo. No, io inizio tardi, ma finisco sempre all'ora giusta, cioè alle 22:30. Riprendiamo il testo di questa canzone, Tell Me Why, dimmi perché. E mi hanno infatti chiesto, cioè la prossima notizia nasce da una conversazione in cui mi hanno chiesto il perché di una cosa. Mi hanno domandato in computer e io mi sono detto, boh, che ne so, Windows lo fa, però effettivamente se sono 3 giorni di fila che ogni pochino te lo chiede, evidentemente ne hanno fatti tanti di questi aggiornamenti. E quindi sono andato a vedere, effettivamente la Microsoft ha rilasciato queste patch, ma tipo non poche. Cioè, tipo hanno patchato 87 robe, per dei motivi però non banalissimi, ma per dei motivi abbastanza interessanti e urgenti. In particolare hanno dovuto patchare in fretta e furia un bug che stava niente poco di meno che nello stack TCP/IP diciamo, dell'implementazione del sistema operativo Microsoft, e che non è una cavolata, cioè nello stack TCP/IP. E poi non è che era proprio uno di quei bug che diceva vabbè, però sarà stata una minchiata tipo il ping of death, mi ammazzava il computer. No, pare fosse proprio un RCE che a partire da un pacchetto. Strambo, strambo, perché era strambo, perché comunque era un pacchetto che riguardava l'ICMP versione 6 e in particolare era quello che viene battezzato router advertisement, che tendenzialmente non è proprio una cosa che in effetti uno utilizza, però l'interessante era che se tu ce l'avevi abilitato l'IPv6 sulla macchina, non sapendo che cavolo ci stava a fare lì, e in particolare se rispondevi e ti chiappavi i pacchetti ICMP, ebbene c'era questa possibilità. Io non ho cercato, non ho avuto tempo in realtà di guardare se qualcuno è andato veramente a sbattersi a capire che cos'è questa cosa e ha scritto un proof of concept, però esiste il CVE di questa roba, quindi è una roba pubblica, probabilmente ci sarà un mercato degli one day che sarà già in fibrillazione a cercare di inserirlo nel proprio arsenale da rivendersi. Ebbene, comunque questa è una delle 87 patch rilasciate ed è il motivo per cui Windows in questi giorni vi ha chiesto di essere riavviato più e più volte, ma hanno poi dovuto patchare anche alcune versioni di Outlook che potevano essere indotte a eseguire codice essenzialmente con una mail costruita in una maniera particolare, quindi un remote code execution a partire da un'email. cioè quello che è il sogno di ogni spammer, sostanzialmente questa cosa, e cioè di ogni personaggio, tipo ad esempio anche quelli di cui abbiamo parlato prima, Finn Fisher, ma sai che figata veicolare il proprio malware semplicemente mandandoti una mail dove comunque te non devi neanche fare troppi click, basta che la visualizzi. Cioè è una bomba questa cosa, è veramente una bomba. E poi c'erano altri RCE sparpagliati, ma che erano effettivamente un po' probabilmente imbarazzanti. E alcuni riguardavano anche delle componenti, tipo ce n'era una che riguardava sta Windows Camera Codec Pack, che immagino che siano i codec usati dalle cam, no? Dalle telecamere. E quindi è anche un oggetto che è abbastanza diffuso in questi periodi dove appunto molte delle cose sono remotizzate e si utilizzano un casino le videoconferenze, le videocall e queste robe qua. Insomma, ce n'è un sacco di questi CVE, se uno c'ha voglia se li scorre tutti. Ce n'è anche uno che riguardava il Windows Error Reporting. Anche questo ganzo perché sembra una roba innocua, diciamo, anzi è utile perché mi aiuta a segnalare a Windows gli errori, e invece no, guarda, lì si nascondeva un'escalation, una privesque, un'escalation dei privilegi possibile, bomba, divertente. E c'è da dire, ad esempio, il primo CVE, a quanto capito, si usa solo in locale, nella LAN, quindi non è che lo esploiti da remoto, però comunque non è che fa schifo uguale. Cioè, a me, cioè, ce l'avessi, uno dice, vabbè, ce l'ho, che fo, ce l'ho. E vabbè, e quindi tendenzialmente questo è il mio raccontino di oggi sulla Microsoft. Mi raccomando, se avete Windows, aggiornatelo, perché poi chissà cosa vi può succedere. Di tutto, un mondo pieno di insidie è questo, sappiatelo. E con questo vi saluto anche perché basta, perché ho altre cose da fare, non è che posso stare qua a perdere tutto il mio tempo in questo modo. Sono le 10:30, cioè avrò anch'io diritto di andare a fare altro, a folleggiare. No, vado a dormire, mestamente questo è. Però comunque vi do appuntamento al prossimo lunedì. Sono stato di parola, cioè arrivo a 5 puntate una di fila all'altra, voglio la mia medaglietta come quella degli alcolisti anonimi, perché mi sembra giusto che anch'io riceva delle gratificazioni ogni tanto e non solo tanto penare e patire per voi e per prepararvi con fatica tutte queste puntate di sofferta conoscenza e musica strabiliante. Quindi vi lascio a un po' di musichina doo-wop, e poi la consueta bobina, e ci si vede lunedì prossimo, ci si sente, ci si vede, no, io non vi voglio vedere, mi basta che mi ascoltiate ogni tanto così, anche in maniera distratta, sono contento uguale.